giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Via libera della conferenza dei servizi alla cabinovia di Trieste per gli enti interpellati, consentendo di limitare l'uso delle automobili, ridurrà l'inquinamento da CO2 e il rischio di incidenti stradali. Non ce l'ha fatta, il triestino di 48 anni investito sulle strisce pedonali martedì sera è morto dopo alcuni giorni all'ospedale e ieri sera ha perso la vita in una fuoriuscita di strada autonoma un settantenne di Attimis che stava rientrando a casa. L'allerta meteo gialla in vigore fino a domattina, il fronte atlantico si sta avvicinando e tra il pomeriggio e la sera porterà in regione temporali anche forti, dalla settimana prossima ancora qualche scampolo di estate. I criteri di valutazione degli educatori del comune di Trieste penalizzano 850 dipendenti comunali impiegati negli asili del capoluogo. La questione approda in consiglio comunale. A Trieste Next, i giovani ricercatori delle realtà scientifiche triestine spiegano agli studenti e al pubblico da oggi fino a domenica cosa fanno nei loro laboratori. A Gorizio entra nel vivo Gusti di Frontiera, 350 stand di golosità da 5 continenti per trovare il piatto preferito. C'è un'app che conduce al posto giusto. 50 treni in più fino a notte per raggiungere e lasciare Gorizia. La Società dei Concerti di Trieste presenta un nuovo cartellone, oltre alla stagione principale, 4 rassegne parallele che coinvolgeranno musei e Castello di Miramare. Tra gli ospiti Emanuel Pahud, Trevor Pinnock, il quartetto Casals, Enrico Dindo. Inaugurata a Rovigo la più ampia esposizione sull'opera della fotografa e rivoluzionaria friulana Tina Modotti. Buongiorno, ben ritrovati da Nada Cioc e Francesca Vigori. La conferenza dei servizi istruttoria relativa al progetto di cabinovia del Comune di Trieste, voluta dal governo, interamente finanziato dai fondi del PNRR, quale progetto prioritario e strategico, ha ottenuto parere favorevole da tutti gli enti e i servizi preposti, lo ha comunicato il Comune di Trieste. Per gli aspetti della salute e della sicurezza pubblica emerge che la realizzazione dell'intervento risulta in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la riduzione del traffico, sia in termini di miglioramento delle condizioni di salute che di riduzione degli incidenti. In questo senso tutti gli organi tecnici interpellati condividono la tesi del Comune, per cui l'opera si presenta giustificata da ragioni connesse alla salute e alla sicurezza pubblica. Sono state valutate anche le ragioni relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, caratterizzate dalla riduzione di CO2, ed è stata condivisa la posizione del Comune, per cui l'opera si presenta giustificata anche da ragioni relative alle conseguenze positive di primaria importanza ambientale, nello specifico dalle riduzioni di emissioni di CO2 stimate dal Comune e confermate da ARPA. La Direzione Centrale Salute ha comunicato che il progetto costituirà una valida viabilità alternativa per l'accesso nord alla città di Trieste, permetterà spostamenti quotidiani sia per lavoro che per piacere più rapidi e agevoli e consentirà di limitare l'utilizzo dell'auto, di camminare più a lungo e di ridurre nel contempo il rischio di essere coinvolti in un incidente stradale. Per la Direzione Centrale Infrastrutture è possibile associare una diminuzione del costo sociale degli incidenti in ragione della diminuzione dei flussi di traffico a seguito della realizzazione della cabinovia. Blitz della polizia nella casa Edis di Udine, che ospita minori non accompagnati. Uno è stato trattenuto per detenzione di stupefacente. La procura dei minori specifica che l'aumentata presenza di minori stranieri sul territorio non ha portato con sé un aumento di reati. Sentiamo. Operazione Interforze questa mattina nella struttura per minori stranieri non accompagnati di Viale 23 Marzo a Udine. Portato in questura e denunciato un minorenne egiziano trovato in possesso di 39 grammi di hashish. Uno dei controlli periodici nei confronti della struttura indica la questura. Il 25 settembre la cooperativa Aedis, che la gestisce, chiuderà ogni rapporto con il comune e traslocherà. E i 19 minori ancora presenti verranno distribuiti sul resto del territorio regionale nelle altre strutture della cooperativa. Da mesi, denuncia Edis, avevamo in carico minori sui quali pendevano diverse denunce penali e chiedevamo controlli. Con il sistema d'accoglienza Saturo non sono stati trasferiti dopo qualche giorno, come di solito accadeva. Francesco Bazzaro, direttore della cooperativa. Si è ceppato il meccanismo tempistico delle dismissioni dei ragazzi in pronta accoglienza. Siamo accanto a un ufficio che è stato sfondato con un estintore e lei stessa ha un braccio rotto. Ho la mano rotta per correttezza, per difendere dalle operatrici che erano rimaste imbottigliate in un corridoio durante una rissa tra questi personaggi, no? Non vedeva coinvolti ragazzi, diciamo, in seconda accoglienza, no? Quelli che volevano vivere discretamente. Michele Lisco, presidente della cooperativa. Non abbiamo mai avuto alcuna risposta nelle richieste, rispetto alle richieste d'aiuto che abbiamo fatto alle varie istituzioni. Noi, come prevede la legge Zampa, non abbiamo nessuna possibilità di agire nei confronti dei ragazzi ed è giusto che ci rivolgiamo alle istituzioni. Negli ultimi 4 anni le pratiche dei minori non accompagnati in accoglienza gestite dalla Procura dei Minori di Trieste sono passate da 1.100 a 4.000. Tuttavia, indica sempre la Procura, l'aumento della presenza di minori stranieri non è andato di pari passo all'aumento dei reati, il cui numero è in flessione. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, esprime preoccupazione per la legge che impone sia il sindaco a farsene carico, anche dal punto di vista del bilancio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle compagnie di Tarvisio, Lattisana, Palmanova e Udine, ha sospeso 5 attività commerciali per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e per la presenza di lavoratori in nero. Si tratta di un ristorante di Tarvisio dove 2 lavoratori su 4 erano in nero, di un distributore di carburanti di Lignano Sabbiadore dove sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza, di un bar di Cervignano sempre per gravi violazioni sulla sicurezza, di una tappezzeria di San Giovanni al Natisone dove è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza e per la presenza di un lavoratore in nero, e infine di un'azienda di servizi di supporto all'agricoltura nel territorio di Bagnaria Arsa per la quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'impiego di un operaio privo addirittura di permesso di soggiorno. Complessivamente, nell'ambito dei controlli che hanno coinvolto 3 pubblici esercizi, un'azienda agricola, un cantiere edile, 3 distributori di carburanti e la tappezzeria, sono state irrogate sanzioni per oltre 150.000 euro. È morto il triestino di 48 anni Xavier Cosmini, investito da un'auto martedì sera sulle strisce pedonali in Viale D'Annunzio a Trieste. Era stato travolto all'incrocio tra Viale D'Annunzio e Via Padovan ed era stato sbalzato per alcuni metri riportando un gravissimo trauma cranico. Portato all'ospedale di Cattinara, le sue condizioni erano apparse subito estremamente serie. Il 29enne che lo ha investito dovrà ora rispondere di omicidio stradale. La comunità di Attimis è sconvolta per l'incidente mortale avvenuto ieri sera poco dopo le 20 in cui è deceduto Rolando Perusin di 69 anni, molto noto nella località anche perché gestiva assieme alla moglie un bed and breakfast. Rolando Perusin stava rientrando a casa lungo via Udine nella zona industriale di Attimis, ha perso il controllo della propria automobile che è finita nel fosso lungo la strada ribaltandosi. L'impatto è stato violentissimo, Perusin è morto sul colpo. Dai rilievi dei carabinieri non emerge il coinvolgimento di terzi, fra le ipotesi della fuoriuscita anche quella di un malore. A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti che hanno notato l'automobile cappottata a bordo strada. Alle 12.39 diamo uno sguardo al meteo, la nuvolosità è variabile su tutta la regione, le temperature a Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, a Gorizia 24 gradi, a Udine 23, a Pordenone 22, a Tarvisio 19, a Tolmezzo 18, a Forni di Sopra 14, a Piancavallo 13, a Sappada 12, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 10 gradi, a Lignano 26 gradi, a Grado 25, la temperatura del mare in queste località è di 24 gradi. C'è l'allerta meteo gialla della Protezione Civile per tutta la regione. Chiediamo al previsore dell'ARPA FVG, Marcellino Salvador, che cosa ci aspetta per le prossime ore. Sta arrivando una perturbazione dall'Atlantico che ha già interessato la parte nord-occidentale dell'Italia, si sta spostando verso il Triveneto. Ci interesserà nel pomeriggio e poi in serata, quando avrà probabilmente i suoi massimi effetti, con temporali, locali piogge intense, e anche vento di scirocco sulla costa. Non è esattamente facile capire da dove ci saranno le piogge più intense e i temporali più forti, da cui c'è un'allerta appunto generica per tutta la regione rispetto alla possibilità che ci sia qualche episodio più forte rispetto agli altri. In ogni caso direi che la situazione dopo la mezzanotte tornerà alla normalità, perché sarà passato il fronte freddo e nella giornata di domani in mattinata avremo tempo discreto. Nel pomeriggio torneranno dei rovesci perché saremo inseriti, diciamo, nella depressione fredda, e questo porterà a ancora qualche episodio di qualche rovescio temporale, ma sarà nella normalità di quanto si può avere nel pomeriggio normalmente in estate, diciamo. Dopodiché giornata di domenica invece con tempo stabile, non succede niente, cielo poco nuvoloso, temperature massime intorno ai 25 gradi, quindi a domenica gradevole. Dalla prossima settimana, da lunedì, torna sostanzialmente estate, perché si torna a temperatura in pianura da 28-29 gradi, ci sarà bora sulla costa, moderata, forse a tratti sostenuta, zona di Trieste, la prossima settimana. Però insomma uno scampolo d'estate che si protrae appunto ben oltre i suoi termini, arriva praticamente al 1 ottobre. Per stasera l'attenzione è data anche dall'avviso della Protezione Civile, quindi seguiremo questa situazione che appunto può portare a qualche episodio significativo. Dall'alba di oggi la polizia stradale ha effettuato in alcune aree di servizio della rete autostradale regionale controlli sugli autisti di mezzi pesanti e furgoni con un nuovo strumento che rileva se le persone al volante siano sotto l'effetto di droghe o alcol. Sentiamo. Una settantina i mezzi pesanti controllati dalla Polizia Stradale di Udine nell'area di servizio di Gonars Nord nel tratto dell'A23 direzione Venezia. Un controllo particolare per assicurarsi che i conducenti dei furgoni e camion non guidino sotto l'effetto dell'alcol e degli stupefacenti. Due pattuglie della Polizia Stradale di Udine, un ufficio mobile con l'ausilio di una pattuglia della Polizia Autostradale e un laboratorio mobile con un tecnico di laboratorio, un chimico e un medico e un'apparecchiatura particolare, ovvero un cromatografo liquido accoppiato ad uno spettrometro di massa che conferma la positività a 5 principi attivi, ossia oppiacei, cannabinoidi o CHT, anfetamina, benzodiazepine e cocaina, attraverso il prelievo della saliva. Se positivi al precursore, l'autista viene accompagnato al controllo di secondo livello. Andrea Nutta, vice dirigente Polizia Stradale di Udine. Li sottoponiamo prima a un controllo preliminare dell'alcol per verificare che non abbiano assunto sostanze alcoliche, dopodiché li indirizziamo al laboratorio mobile dove viene fatto un primo test di screening per verificare se hanno assunto sostanze, dopodiché viene fatto un prelievo salivare, che questo prelievo salivare viene poi analizzato con la tecnica LC di massa, che è un esame di laboratorio di secondo livello, nel caso a confermare la positività del precursore. Un medico, il quale farà poi una valutazione in termini di parametri vitali e comportamentali del soggetto, per appunto poter valutare l'alterazione e dimostrare che l'alterazione c'è. Nei confronti degli autotrasportatori, oltre a esserci un'ammenda, carattere penale, l'arresto, c'è anche la sospensione della patente e la revoca della patente al primo accertamento. I controlli proseguiranno in altre giornate, non solo in autostrada, ma anche lungo la viabilità ordinaria. Gonars, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. In Consiglio Comunale a Trieste arrivano le polemiche sui sistemi di valutazione degli educatori dipendenti dal Comune. I sindacati confermano lo sciopero il 9 ottobre. È il consigliere Paolo Altin della lista Russo.Franco a sollevare in seconda commissione consiliare in municipio a Trieste la questione dei lavoratori dell'area educazione dipendenti dal comune, perché i sindacati di settore UIL, FPL, CISL, ST e UGL Autonomie hanno promesso barricate e uno sciopero degli educatori di asili nido e scuole materne comunali il 9 ottobre se non avranno risposte in merito alla questione delle valutazioni dei dipendenti significativamente più basse tra gli educatori che in tutti gli altri servizi. E uno sciopero è da scongiurare, chiede Altin, i cui disagi ricadrebbero solo sulle spalle delle famiglie triestine con figli piccoli. I criteri di valutazione da cui dipendono avanzamenti di carriera, gli aspetti previdenziali dei circa 1000 dipendenti comunali impiegati nel settore educativo, 850 dei quali effettivamente operativi negli asili comunali, sono già stati corretti, spiega l'assessore alla funzione pubblica Stefano Avian. Lo dimostrano i dati in crescita delle valutazioni negli ultimi anni, ma si tratta di un processo di lungo periodo, spiega. Mentre l'assessore alle politiche familiari Maurizio De Blasio rivendica un approccio collaborativo del comune nei confronti dei sindacati di settore, ma i rappresentanti dei lavoratori soddisfatti non sono. Tra le questioni sollevate dai sindacati anche l'ordine di servizio che aveva richiesto agli insegnanti di nidi e materne di lavorare tra il 23 e il 25 agosto nei ricreatori per permettere ai colleghi di partecipare ai concorsi. Era l'unica soluzione percorribile, secondo i nostri uffici, spiega l'assessore Avian. Trieste, Lorenzo Gherlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alla Electrolux di Porcia, l'azienda, incontrando l'RSU, ha ipotizzato 2 giorni di chiusura dello stabilimento in ottobre per il calo di ordinativi. Una chiusura non ancora calendarizzata che però preoccupa i lavoratori che dal 2 ottobre iniziano a lavorare a orario ridotto di 6 ore proprio a causa del calo dei volumi degli ordini. I sindacati insistono per l'apertura di un tavolo a Roma sul calo di produzione dell'Electrolux e sulle strategie che la multinazionale intende mettere in campo per far fronte allo stallo. I lavoratori dell'Automotive Lighting di Tolmezzo del gruppo Marelli oggi scioperano per 8 ore in segno di solidarietà verso i colleghi della Marelli di Crevalcore. Ai dipendenti di Crevalcore è stata comunicata pochi giorni fa la decisione del gruppo di chiudere lo stabilimento con il conseguente licenziamento di 230 persone. Nella fase di transizione dell'elettrificazione dei motori, sostengono Fin, Fiom e Wilm, non si può semplicemente chiudere uno stabilimento, ma è essenziale preservare la continuità. Fabiano Venuti della FIM esclude però che un passo analogo possa essere intrapreso nello stabilimento tolmezzino, in quanto qui si producono fanali e componenti sui quali non incide la transizione verso le auto elettriche. A Trieste si è inaugurato poco fa Next, il Festival della Scienza, che in questa prima mattinata ha portato i curiosi in viaggio all'interno di una cellula del cervello umano e in un fotone. Sentiamo. Spider-Man ai raggi X, in buona compagnia con i Fantastici 4 e i raggi cosmici, il viaggio allucinante dell'ICG e B all'interno della cellula umana del cervello, il gioco dell'INAF a cavallo di un fotone per uscire dalle profondità del Sole e dirigersi verso i telescopi della Terra, i misteri degli algoritmi. Sono solo alcuni dei laboratori e spazi espositivi delle realtà scientifiche presenti a Trieste Next, al via oggi e fino a domenica in Piazza Unità. Abbiamo associato Spider-Man ai raggi X perché Peter Parker assume i suoi poteri una volta morso da un ragno che è stato irraggiato con una grande dose di raggi X. Partiamo da questo per capire un po' di fisica che c'è dietro ai raggi X, la storia, quindi i Nobel che ci sono dietro a tutte queste ricerche di fisica poi applicata alla medicina, per arrivare a come queste radiazioni sono usate in ospedale, dall'RX alla TAC. L'ICGB sta lavorando a un progetto di realtà virtuale che si chiama appunto Viaggio allucinante all'interno della cellula umana, che permette appunto di visualizzare come è fatta una cellula umana impersonificandoci in un virus. Quindi da un virus infettiamo la cellula e andiamo a visualizzare la cellula come è al suo interno. È un fotone che con l'aiuto dei ragazzi deve riuscire a uscire dal Sole. I fotoni sono le particelle di luce che nel nostro caso sono quei robottini lì che adesso vedete sul tappeto, devono uscire dal Sole, raggiungere un pianeta, vengono riflessi dal pianeta e arrivano a Terra catturati da uno dei telescopi dell'INAF che fa le osservazioni. Gli algoritmi eseguono quello che gli diciamo di eseguire, quindi fondamentalmente non siamo in uno step tale per cui dobbiamo preoccuparci di qualcosa, almeno nel futuro immediato, ma non credo che sarà nemmeno nel futuro prossimo una preoccupazione, ecco. Nel pomeriggio spazio agli incontri sui temi delle nuove frontiere che la scienza ha di fronte a sé: clima, energia, salute, intelligenza artificiale, space economy. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Gorizia perché entra sempre più nel vivo la 18esima edizione di Gusti di Frontiera, che fino a domenica invade con i suoi profumi e i suoi colori le strade e le piazze della città. Un'avventura enogastronomica intorno al mondo che ospita quest'anno 341 stand suddivisi nei 14 borghi geografici. 40 paesi dai 5 continenti per un mappamondo delle cucine, ma anche grande spazio alle eccellenze locali, al Parco del Gusto, allestito nel parco del municipio. Grazie alla geolocalizzazione di tutti gli stand, con la mappa interattiva presente sul sito di Gusti di Frontiera, si possono trovare le informazioni utili per conoscere tutte le sfaccettature del grande villaggio del Gusto e anche effettuare una ricerca partendo dal piatto che si desidera assaggiare. Oggi e domani gli stand sono aperti fino alle 2 di notte, domenica fino a mezzanotte. Attivo il servizio gratuito di bus navetta che garantisce gratuitamente i visitatori il trasporto verso il centro città dai parcheggi limitrofi e gratuiti. Quanto al treno, sono attive da oggi 50 corse straordinarie che si aggiungono ai treni normalmente previsti da e per Trieste, Udine, Sacile e Carnia fino a tarda sera. Confermato anche quest'anno il trenino internazionale da e per Nova Gorizia, anch'esso gratuito. Novità della 18esima edizione, il treno storico Gusti di Frontiera Trieste, Nova Gorizia, Gorizia, Trieste, una locomotiva diesel con carrozze anni 30, in programma per l'ultima giornata della manifestazione domenica 24 settembre. Nella settimana della mobilità a Trieste, fino alle 19 in Piazza della Borsa, Trieste Trasporti racconta le proprie iniziative e attività nella città dove 160 anni fa il trasporto pubblico mosse i primi passi. E a Udine in serata al cinema visionario sarà proiettato per la prima volta in Italia il docufilm No Legs, All Heart, prodotto negli Stati Uniti nel 2023 con protagonista l'atleta statunitense André Kajlich, che ha scelto Udine per vivere. Precederà la proiezione una conversazione sul coraggio di cambiare passo. La Società dei Concerti ha presentato il suo 92esimo cartellone. Lo storico sodalizio triestino quest'anno festeggia l'apertura della stagione principale il 13 novembre con il concerto numero 1500, ma ci saranno anche quattro rassegne parallele. Tra le proposte che si terranno come ormai tradizione al Teatro Verdi di Trieste, una selezione del meglio che i palcoscenici internazionali possono offrire, con nomi del calibro di Emmanuel Paoud, Trevor Pinnock, Jan Bostridge, il quartetto Casals. Sentiamo il direttore artistico della Società dei Concerti, Marco Seco. Abbiamo voluto ripresentare tutta la nostra attività e ampliandola, portandola in tutta la città, insomma un po' sul successo del festival cerchiamo di presentare questa nuova stagione con artisti davvero straordinari come il flautista Manuel Paut, come il pianista Luis Ortiz, come il violoncellista Enrico Dindo, insomma tutti artisti che calcano le scene mondiali. Ci sarà anche il nipote di Prokofiev? Esatto, ci sarà il nipote del famosissimo Sergei Prokofiev, Gabriel, che ormai anche da un po' di anni anche lui ha grande successo, e la sua sicuramente caratteristica è quella di aver saputo trovare un connubio tra il digitale, diciamo quindi la musica elettronica, e quella più classica con gli strumenti acustici. Accanto alla stagione principale ci sono quattro rassegne parallele: i gioielli Wunderkammer, la Società dei Concerti nei Musei Civici, musica d'avvento e di Natale, estate in musica. Questi appuntamenti escono dal Teatro Verdi? Sì, appunto, come dicevo, la idea è anche quella di portare la musica verso il pubblico, verso la città, e quindi questi saranno nei musei, saranno al Castello di Miramare, saranno insomma in diversi luoghi della città. Dinamo Dotti, l'opera, è la mostra inaugurata a Rovigo, a Palazzo Roverella, è dedicata a una delle più importanti fotografe del XX secolo. Ad oggi è la più ampia esposizione sull'opera della fotografa e rivoluzionaria friulana. Il servizio è di Ivana Godnik della TGR Veneto. Un percorso che nel suo nome racconta tutta la sua fotografia, Tina Modotti, l'opera, l'omaggio più ricco e importante a lei mai dedicato, in mostra a Rovigo fino al 28 gennaio. 300 scatti realizzati tra il 1923 e il 1929, quando la giovane emigrata friulana tra il centro e il Sud America immortalò gran parte del mondo che vedeva, ma soprattutto viveva. La vita di Tina Modotti in tutte le sue varie fasi si è sviluppata con grande intensità. La novità di questa mostra è proprio che in questo periodo breve fotografa più di quello che era noto. Una mostra che ha per filo conduttore la libertà e l'orgoglio femminile, riflessa in molti dei suoi scatti a tema sociale, attivismo, impegno ai bambini e la dignità umana sempre in primo piano. L'importante, e speriamo anche di segnare un po' un anno chiave nello studio di Tina Modotti, che si proceda nel continuare a mappare la sua carriera, ad aumentare la documentazione, proprio perché essendo frammentata necessita di studi rigorosi. Noi stessi siamo entrati in possesso di alcuni faldoni che meritano maggiore studio ed è di alcune piste che sono da percorrere. Non una mostra sulla vita avventurosa e le frequentazioni anche importanti di Tina Modotti, ma un'esposizione sulla sua arte e poi i documenti e gli oggetti inseguiti raccolti dagli archivisti di Cinema Zero di Pordenone. Scatti color seppia che dopo l'espulsione nel 1930 dal Messico in Germania, Tina Modotti ha dichiarato di non poter più realizzare perché nella grigia Berlino le mancava la luce latinoamericana. Era l'ultimo servizio del nostro giornale radio, redatto e condotto da Nada Cioc e Francesca Vigori, con la collaborazione di tecnica di Mauro Ciccarelli e quella di Valentina Veneruso in redazione. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.